Nella foto sono appoggiato al muro. Dietro di me c'è una sua gigantografia. E io ho un'espressione che non saprei decifrare. Forse è solo la faccia che ti viene quando hai appena dato forma ad un tuo assurdo desiderio e ci sei passata attraverso. Io sono qui. Io sono qui. Di Matteo Caccia. Questa è Radio 24. Io sono Matteo Caccia e sono qui. Sono appoggiato a un muro, che in realtà è un muro che delimita una scala. È un edificio color salmone, a metà tra il rosa e l'arancione. C'è una luce molto forte, quindi è chiaramente estate. Di fianco a me c'è una scritta, in blu, sulla parete color salmone. Dice Club Tennis Manacor, ristorante. Alle mie spalle invece c'è una sorta di poster, è una gigantografia. C'è Rafa Nadal che colpisce una palla, lui è vestito nei suoi completini assurdi della Nike, bianco, fucsia, azzurro, e ha polsini e una fascia in testa verde, tipo verde pisello. E di fianco c'è l'elenco delle cose che ha vinto di recente: 2008 medaglia d'oro a Pechino, 2010 vince i Master a Monte Carlo, a Roma e a Madrid, e ancora 2010 quinto trofeo del Roland Garros, numero uno del ranking mondiale. Io ho un'espressione, boh, da cretino proprio. Sono appoggiato a sto muro, ho una camicia con le maniche fatte su, un paio di bermuda blu, delle scarpe estive, e gli occhiali da sole sulla testa, sopra i capelli. Ho le mani in tasca e ho proprio una faccia, direi, da cretino. Però sembro felice. Matteo Caccia, Manacor, estate 2010. Io sono qui. Questa è la foto di questa giornata, anzi questa è la foto di questa puntata. E quindi durante questa puntata vi spiegherò come sono arrivato lì, come sono arrivato a scattare questa foto che trovate sul profilo Facebook Matteo Caccia Io Sono Qui, e probabilmente anche sul sito. Ce l'abbiamo anche sul sito? Sì, ce l'abbiamo anche sul sito, che è radio24.it, la pagina Io Sono Qui, insieme all'altra foto della giornata. Ma questa è la foto di questa puntata. In questa foto ci sono io e sono in un posto molto particolare. Perché sono arrivato qui? Probabilmente alcuni di voi lo immagineranno se conoscevano Vendo Tutto, e altri invece no, e quindi ve lo spiego, perché c'è una lista di desideri che io ho stilato e che devo realizzare. Più tardi ve la farò sentire. Questo fa parte di quei desideri là. L'anno scorso io ho provato a realizzare gli altri. Dico provato perché non sempre ci sono riuscito, o meglio, li ho realizzati, però non sono sempre stato presente a me stesso, diciamo così. Parlo del lancio col paracadute, che è stata un'esperienza incredibile. Ci ho messo una puntata per raccontarlo e un mese per riprendermi, e di fatto, insomma, ho perso i sensi. Se avete curiosità, andate a sentirvi la puntata di Vendo Tutto in cui lo racconto. L'altra invece era, l'altro desiderio, a salire sul Monte Rosa. Ecco, non sono salito sul Monte Rosa, però Tiziano Bonini mi ha trascinato sul Gran Paradiso, e più o meno, diciamo, non tutto, ma più o meno è andata così. Di fatto non ce l'abbiamo fatta. Dall'altra vetta siamo a 261 metri dalla seconda vetta. Prima vetta è stata raggiunta. Sì, guardami, però sembro uscito dalla crisi del 29. Nella foto che vi ho descritto invece non sembro uscito dalla crisi del 29, c'ho comunque la solita faccia da cretino, però è la faccia di un cretino felice. Quella foto è stata scattata nell'estate del 2010, la scorsa estate, e più o meno è andata così. Oggi mi trovo nella situazione in cui mi trovo per via di una lista. Una lista di cose che volevo realizzare e che l'anno scorso mi sono accorto di non avere ancora nemmeno provato a rendere concrete. Ho stilato una lista di desideri e per realizzarla ho venduto tutto e mi sono messo a spuntarla. Forse qualcuno ha ascoltato il programma dello scorso anno e sa di cosa parlo. Per chi non ne sapesse niente, invece, la lista è questa qui. Fare il bagno nelle terme di Nagano insieme ai macachi. Scalare il Monte Rosa. Attraversare l'Atlantico su una nave cargo. Lanciarmi col paracadute da 6.000 metri. Sposarmi a Las Vegas. Non importa con chi. Giocare una partita a tennis con Nadal e batterlo. Portare a cena fuori Natalie Portman. Fare un viaggio in mongolfiera. Spaccare a pallonate tutti i vetri di casa dei miei e poi ricomprarglieli. Imparare a suonare la batteria. Incontrare Obama, Mourinho e il Dalai Lama. Fare un viaggio con la Transiberiana. Vedere una finale del Super Bowl. Vedere il Taj Mahal. Attraversare la foresta amazzonica. Vedere il deserto della Patagonia, quello del Gobi e quello del Nevada. Imparare il cinese. Imparare l'arabo. prendere il brevetto da pilota e quello da sub, e poi imparare a camminare sul filo. Ecco, di questi un paio li ho più o meno realizzati durante la scorsa stagione. Dico più o meno perché di fatto mi sono lanciato con un paracadute e sono svenuto. Mentre non sono salito sul Monte Rosa, ma sul Gran Paradiso, e non sono nemmeno riuscito ad arrivare in cima. La lista però è lunga e non ho intenzione di desistere. Io penso che sia giusto prendere coscienza dei propri desideri, capire chi siamo in base a quello che ci piace e poi non abbandonarli. Bisogna frequentare i propri desideri, investirci del tempo, del denaro. Non fare finta che tanto la vita va avanti comunque, anche se non sono mai stato nel deserto della Patagonia o non ho attraversato l'oceano su un cargo, perché certo che la vita va avanti. La vita va avanti sempre, con o senza di noi. E quindi conviene starle addosso e fare soprattutto le cose che ci piacciono, magari non solo quelle, ma soprattutto quelle. E alla fine forse tutto diventa un po' più facile. Ecco perché quest'estate ho preso un aereo e sono andato a Maiorca a cercare di incontrare Rafa Nadal. Nadal è uno dei tennisti più forti del mondo. Per la precisione, in questo momento è il numero uno del ranking. La classifica però varia continuamente, perché praticamente ogni settimana ci sono tornei diversi che modificano in tempo reale le posizioni in classifica. Da qualche anno a questa parte però i migliori giocatori su piazza sono due. Sono Roger Federer e Rafa Nadal. Federer ha quasi 30 anni ed è la quintessenza del tennis. Qualsiasi maestro di tennis consiglia ai suoi allievi di osservare in TV i movimenti di Federer, perché quello che lui fa, lo fa alla perfezione. È difficile vedere Federer steccare un tiro o scomporsi al momento dell'impatto. È un giocatore freddo ma bello da vedere, è preciso e implacabile. È svizzero. Uno scrittore appassionato di tennis come David Foster Wallace ha scritto un piccolo saggio su di lui che inizia così. Quasi tutti quelli che amano il tennis e seguono i tornei maschili in televisione avranno sperimentato negli ultimi anni uno di quelli che potrebbero essere definiti momenti Federer. Ci sono delle volte, quando guardi giocare il tennista svizzero, in cui la mascella scende, gli occhi si proiettano in avanti ed emetti dei suoni che inducono il coniuge nell'altra stanza a venire a vedere se ti è successo qualcosa. Questi momenti Federer sono ancora più intensi se hai abbastanza esperienza diretta di gioco da comprendere l'impossibilità di quanto gli hai appena visto fare. Tutti possiamo citare qualche esempio. Questo è uno. Finale degli US Open del 2005. Federer contro Agassi. Siamo all'inizio del quarto set. Federer al servizio. C'è uno scambio piuttosto lungo di colpi da fondo campo. Ad un certo punto Agassi si fa sotto e scaglia la palla con forza nello stesso angolo di prima per cercare di prendere Federer in contropiedi, e in effetti ci riesce. Federer sta correndo verso il centro e la palla ora è diretta verso un punto dietro di lui e non c'è tempo di girare il corpo. Ed ecco che Federer, non si sa come, riesce a invertire istantaneamente la spinta. Arretra di 3 o 4 passi, quasi saltellando a una velocità impossibile, e colpisce la palla di dritto sul suo lato di rovescio, con tutto il peso spostato all'indietro. Agassi, che è sceso a rete, si protende per cercare di intercettarlo, ma la palla lo supera, corre lungo la linea e va a atterrare esattamente sull'angolo destro del campo di Agassi, conquistando il punto, con Federer che ancora sta danzando all'indietro quando la palla tocca terra. E poi segue quel consueto breve secondo di silenzio attonito prima che tutta la folla newyorkese esploda e in TV John McEnroe dica come ha fatto a fare punto da quella posizione. That's, I mean, how do you hit a winner from that position is what Agassi's thinking. That is good defense. Ecco, questo è Roger Federer. E poi c'è Rafa Nadal. Rafa Nadal ha 24 anni. È nato in una cittadina sull'isola di Maiorca che si chiama Manacor. Nadal ha 24 anni e ha vinto 42 tornei ATP in giro per il mondo, di cui 9 tornei del Grande Slam a Parigi, Wimbledon, Melbourne e New York. Insomma, ha già vinto tutto. Ha una struttura fisica imponente. Le sue masse muscolari sono evidenti sotto le magliettine che la Nike gli disegna su misura. La sua forza sono i tiri da fondo campo, cioè lui è uno di quei giocatori che si piazza là, dietro la linea, e prende a pallate il suo avversario, come fosse un condannato a morte al muro che aspetta la fucilata. Vedere giocare insieme lui e Roger Federer è quasi un dono. La perfezione e la follia, la purezza e la passione. Rafa Nadal ha una forza sovrumana che sembra arrivare da una rabbia antica, quasi devastante. Quando colpisce la palla emette dei gemiti come di un animale ferito. Si muove in maniera scomposta. Per chi deve imparare a giocare a tennis, quello che fa lui è la cosa più sbagliata da guardare. La prima cosa che un maestro ti insegna è di correre verso la palla, posizionarti con i piedi ben piantati a terra e colpirla con il peso in avanti. Nadal invece colpisce la palla mentre è praticamente in volo. Compie delle torsioni quasi innaturali con il busto e imprime alla racchetta una spinta impressionante. E poi c'è un'altra cosa che fa di questo tennista un essere splendido e misterioso. Nadal non è mancino, eppure gioca a tennis con la sinistra. Mi spiego. Lui scrive con la mano destra, mangia con la mano destra, si lava i denti con la mano destra. Ma quando era bambino e giocava a tennis, teneva la racchetta con due mani per dare maggiore forza alla palla. Allora il suo allenatore, che è un ex tennista oltre ad essere suo zio, un giorno gli ha detto: senti, decidiamo, che mano vuoi usare? E lui ha iniziato a impugnare la racchetta con la sinistra. Nonostante tutto però lui continua ad essere un destro, ma per giocare a tennis usa la mano sinistra. Cioè, è come se Pavarotti avesse sempre solo sussurrato mentre parlava, o Einstein non avesse mai fatto una moltiplicazione se non con una calcolatrice. Ecco, io detesto le metafore sportive, no? Quelle per cui la vita è come una partita di calcio o come una maratona. No, io credo che la forza dello sport sia nella sua inutile bellezza. Un po' come accade quando guardi un'opera di Caravaggio o un funambolo che cammina nell'aria. Ecco, guardare giocare a calcio Zidane, vedere sciare Hermann Mayer o osservare uno scambio tra Federer e Nadal è qualcosa che ti riavvicina al senso puro della bellezza, che poi è il senso puro delle cose. Cioè, una cosa bella è una cosa che ha sempre un senso, anche se è inutile, anche se sembra non servire a niente. Te la stai a guardare perché in quei movimenti, in quelle forme, in quei colori, c'è una qualche piccola verità che parla anche di te. Ecco perché questo dovrebbe essere una cosa da fare sempre. Cercare la bellezza ovunque e passare spesso il tempo così. Questo pezzo si chiama Bellezza ed è un pezzo dei Marlene Kunz, che sono un gruppo piemontese. Non li mandiamo spesso, però ogni tanto ci è capitato. Questo brano però è perfetto per raccontare quello che sto raccontando oggi, che è il mio incontro con questo tennista straordinario. Prima ho utilizzato un brano invece, il brano che ho letto è un brano di David Foster Wallace, che ultimamente sto usando tantissimo, semplicemente perché lo leggo tantissimo, visto che vado per ossessioni. In questo periodo sono ossessionato da lui e da tutto quello che ha scritto. Quello che ho citato in particolar modo però è un libretto minuscolo che mi ha regalato Tiziano Bonini, e quindi devo ringraziarlo per questo. Si chiama Roger Federer come esperienza religiosa ed è un libricino minuscolo di 70 pagine che in realtà è un articolo che lui scrisse quando New York Times, credo, lo mandò nel 2005 a seguire gli US Open, e lui scrisse questa cosa di Roger Federer. Lui era innamorato di Roger Federer e posso capire appunto il perché tutto ciò ha a che fare con la bellezza e con la meraviglia di questo sport che è il tennis. Io invece ho sviluppato questa passione per Nadal proprio per il suo disordine, per la sua incapacità di fare un colpo senza che sembri l'ultimo, senza che sembri quello per cui, dopo il quale morirà probabilmente stremato sul campo. Appunto, questo libretto, vi ricordo, si chiama Roger Federer come esperienza religiosa. È proprio una cosa minuscola. Se avete giocato a tennis non potete non leggerlo. Se non avete giocato a tennis vi consiglio di farlo. Ora però vi descrivo una foto, che è un'altra foto, non c'entra con la mia, ma fa parte di questo piccolo progetto che si chiama E voi dove siete? Perché mi ha stupito il fatto che Vi ho chiesto semplicemente di mandarmi una foto e di caricarla sul profilo Facebook Matteo Caccia Io Sono Qui, o di spedirla a Io Sono Qui @radio24.it. E se andate a vederle, è vero che tutti hanno mandato foto diverse, quello che vedono dalla finestra, l'ultima vacanza che hanno fatto, il loro figlio, la loro moglie incinta, la loro scrivania. Poi però un giorno mi è arrivata la prima pagina di un libro. Era un libro firmato, tra l'altro, e non era un libro qualunque, era anche quello un libro di David Foster Wallace. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Infinite Jest, c'è scritto. A novel, un romanzo. David Foster Wallace. In basso, Little Brown and Company, Boston, New York, Toronto e London. È la prima pagina, quella non la copertina, quella probabilmente appena dopo, forse ce n'è un'altra in mezzo. Di solito sì, di solito c'è la copertina, poi c'è una pagina bianca in mezzo e poi c'è questa. È l'intestazione del libro. La scritta David Foster Wallace però è stata cancellata con una penna, come si fa quando si mandano gli inviti per il matrimonio oppure i ringraziamenti e si cancella il proprio nome che è stato stampato. È cancellata e c'è la firma a penna, David Foster Wallace, immagino, anche se è abbastanza incomprensibile. Di fianco c'è una... non si capisce cosa sia, sembra una faccia, potrebbe essere una freccia che indica il basso, però con due occhietti in alto, oppure proprio un viso molto allungato, due occhi, un lungo naso e una bocca. Ecco, questo è il romanzo di David Foster Wallace, Infinite Jest, che significa lo scherzo infinito. Ha a che fare anche questo con il tennis, ma soprattutto ha a che fare con la costanza, perché è un romanzo di oltre 1000 pagine in cui c'è il tennis e c'è probabilmente tutto David Foster Wallace. Questa foto, la foto di questa copertina, me l'ha mandata una ragazza. Laura Cappelli, 32 anni. Signorina, se era per me, saresti ancora al cancello con il naso tra le sbarre. Io sono qui a pagina 794. Io sono qui. E così, la scorsa estate, ho preso un aereo e sono andato a Maiorca. È un'isola strana, Maiorca. Nella mia minuscola memoria, Maiorca, o meglio Palma de Maiorca, era il posto in cui il gruppo di anziani del mio paese andava a trascorrere una settimana di ferie a settembre. Ricordo ancora i Deplian, con questi albergoni alti e bianchi in riva al mare. Infatti mi immaginavo una sorta di devastazione edilizia da fine anni 70. E un po' è così, ma molto anche no. Innanzitutto, Maiorca non è un'isoletta. Sarà grande più o meno un terzo della Sardegna. E come tutte le isole è più campagna che mare. Io sono atterrato a Maiorca in una di quelle mattinate torride di mezza estate. Ho noleggiato un'auto, ho fissato il navigatore su Manacor e sono partito. L'asfalto dell'autostrada sembrava ribollire. Io me ne stavo sigillato in auto con l'aria condizionata a 1000. Avevo fatto delle ricerche prima di partire. Avevo scoperto che dopo aver vinto Roland Garros e Wimbledon, Rafa se n'era tornato a casa per prendersi un po' di vacanza. E quindi lui era qui. Io avevo prenotato un albergo a Manacor per una settimana ed ero convinto che se fossi rimasto lì una settimana intera, prima o poi l'avrei almeno incontrato. Sì, ok, il mio desiderio era quello di giocare con lui e batterlo, però i desideri sono una cosa e la realtà poi è un'altra, quindi bisogna trovare il modo per farli incontrare almeno a metà strada. Sono arrivato nella città di Nadal verso le 2 di un mercoledì pomeriggio. Il mio albergo era l'albergo di una città industriale dell'entroterra di un'isola del Mediterraneo. Essenziale, ma pulito, con una piccola televisione e una finestra che dava su una pianura consumata dal sole. Ho chiesto alla reception se sapevano indicarmi la casa del tennista. Loro mi hanno detto che era facile da raggiungere, però era impossibile entrarci, perché mica credevo di essere il primo a voler incontrare Nadal. Io ho sorriso con un po' di imbarazzo e sono uscito a farmi un giro, perché a quello effettivamente non ci avevo pensato. Cioè, al fatto che avrei potuto essere preso per un pazzo, che magari lui era tormentato da fan deliranti che avevano una lista di desideri tra i quali incontrare il miglior tennista al mondo. O magari peggio, poteva addirittura pensare che io ero un supporter di Federer e che volessi, che so, rompergli un braccio. Mentre camminavo e questo delirio mi vorticava nella testa, forse per il timore, non lo so, forse per il caldo, improvvisamente ho sentito il tipico rumore di palla da tennis che rimbalza sulle corde di una racchetta. Mi sono guardato in giro sperando di trovare lui con il suo completino colorato e i capelli tenuti insieme da una fascia. Ho visto solo una struttura color salmone che assomigliava più ad un ristorante che a un tennis club. ma sul muro campeggiava questa scritta: Club Tennis Manacor Restaurante. Quindi era sì un ristorante, ma era soprattutto un tennis club. Il tennis club, quello in cui Nadal era cresciuto. Eccomi qui, ora ero davvero vicino. When you feel it, you know. Ovviamente non è stato facile. Ora vi risparmierò i miei tentativi pietosi per cercare di tirare fuori dai camerieri del ristorante qualche informazione su Nadal, per capire come potevo incontrarlo. L'unica cosa che ho scoperto è stata che quello era il posto in cui era tennisticamente cresciuto e che quando era lì a Manacor passava a salutare o magari a fare un paio d'ore d'allenamento. L'unica cosa che potevo fare era quindi accamparmi lì fuori e aspettarlo. Tornavo in albergo solo per dormire, per farmi una doccia. Sembravo un maniaco, o meglio, pensarci bene, a tutti gli effetti lo ero. Dopo 4 giorni di appostamenti, una mattina sono arrivato verso le 8:30 al club. Ho parcheggiato la macchina davanti e quando sono sceso ho capito che c'era qualcosa di diverso. Non ho realizzato subito di cosa si trattasse, poi però è bastato un attimo per capirlo. Era il rumore. Cioè, davanti ad un tennis club c'è sempre il tipico rumore di palline che sbattono sulle corde, no? Come uno schiocco secco che si ripete. Quello però non era uno schiocco, assomigliava più ad un colpo, un tonfo cupo, un rumore quasi spaventoso per la sua forza, per il modo in cui rimaneva ancora sospeso nell'aria. Mi sono guardato in giro e ho visto una macchina grigia e bassa, credo un Aston Martin, una di quelle auto che costano quanto uno yacht. Ho pensato che ormai era fatta, Nadal era lì. Mi sono seduto sui gradini e ho aspettato. È passata un'ora, credo, forse due, poi il rumore improvvisamente ha smesso. Sono trascorsi 20 minuti e finalmente Nadal è uscito. Era insieme a una signora che poteva essere sua mamma e un ragazzino, suo fratello credo. Ma la cosa incredibile era che per quanto grosso, per quanto potente, anche lui sembrava un ragazzino. Forse perché lo è, visto che ha 24 anni. Con tutta la discrezione possibile mi sono avvicinato e l'ho salutato. In uno spagnolo rocambolesco ho cercato di spiegargli perché ero lì, da dove venivo, la storia dei desideri, insomma tutto. Lui ha sorriso, forse perché non capiva e forse perché lo divertiva. Mi ha detto che gli piaceva il calcio italiano, poi mi ha chiesto perché squadra tifavo. Gli ho risposto Inter. Lui si è illuminato, mi ha ringraziato per aver impedito al Barcellona di vincere la Champions League e per avergli dato José Mourinho, visto che lui tifa Real Madrid. Intanto la madre stava già salendo in auto. Lui con una voce garbata che stonava completamente con la sua stazza e la mandibola squadrata mi ha chiesto: e quindi come posso aiutarti? Io gli ho detto che avrei dovuto giocare con lui e batterlo. Lui mi ha guardato. Io ero vestito con dei bermuda e una camicia. Poi si è fatto serio. Ha tirato fuori 2 racchette che teneva nella sacca. Ne ha impugnata una e me ne ha prestata un'altra. Poi ha preso una pallina e me l'ha lanciata. Lì, nel parcheggio, davanti ai campi. Non so come sono riuscito a rispondere, ma ne è uscita una palla cortissima e moscia. Lui allora si è allungato e l'ha presa. Io gli ho risposto, stavolta un po' meglio. Nadal a quel punto ha finto di non riuscire a prenderla e l'ha lasciata cadere. Ha allargato le braccia e mi ha detto: you won, hai vinto. Mi ha salutato, io gli ho stretto la mano e lui se n'è andato. Ancora non avevo capito bene, però era successo. Avevo fatto 2 scambi con il tennista più forte del mondo e avevo fatto 1 punto, quindi l'avevo battuto. Poco importava che lui me l'avesse fatto fare. Importava che avevo preso un aereo, che ero arrivato fino a lì e contro ogni imbarazzo avevo realizzato un mio desiderio. Quando lui è ripartito mi sono accorto che non avevo nemmeno una foto, nemmeno un video, un autografo. Allora ho tirato fuori la macchinetta e ho chiesto ad un passante di scattarmene una, lì, davanti al tennis club. Nella foto sono appoggiato al muro. Dietro di me c'è una sua gigantografia e io ho un'espressione che non saprei decifrare. Forse però è solo la faccia che ti viene quando hai appena dato forma ad un tuo assurdo desiderio e ci sei passato attraverso.